Europa 24. Buongiorno, un saluto da Gigi Donnelli. Dunque gli OGM oggi in primo piano a livello appunto di Commissione Europea e di Parlamento. Intanto nessuna maggioranza qualificata di Stati membri, né contraria né favorevole all'ok alla coltivazione dell'OGM Pioneer 1507. Questo è lo specifico che viene votato proprio nei minuti che arrivano. Ma l'aspetto interessante è che lo scenario più probabile, cioè già verificatosi poi a livello di ambasciatori europei, che non si trovi appunto un accordo tra i 28. Una spaccatura in questo senso vuol dire obbligo legale da parte della Commissione UE di adottare senza ritardi ingiustificati la sua stessa proposta favorevole all'autorizzazione della coltivazione del mais transgenico. Insomma, una non decisione in questo caso equivale a una partenza, a un'autorizzazione. Infatti interviene poco fa il commissario UE alla salute Tonio Borg, dice: sta agli Stati membri assumersi piena responsabilità nella decisione sugli OGM, sia l'ok al mais transgenico 1507, sia nel riaprire il dibattito sulla revisione della legislazione UE in materia, bloccata da anni per le divisioni tra i paesi. Chi invece sembra non avere dubbi sulla questione è il ministro degli affari europei, il ministro italiano degli affari europei Enzo Moavero Milanesi, che dice: l'Italia è contro, senza se e senza ma, è contro ovviamente all'autorizzazione della coltivazione sugli OGM, ma su questo staremo a vedere. Oggi parliamo anche di un incontro, una giornata in corso a Milano, si chiama Info Day Nazionali sui programmi europei per giovani, associazioni, società civili ed enti locali. Come sapete, qui a Europa 24 cerchiamo di darvi anche degli elementi pratici per capire come sia possibile accedere ai finanziamenti europei, sempre di più indispensabili in molte attività appunto di associazionistiche, ma anche di piccola e media impresa. Allora, abbiamo parlato di questo con il presidente di CSV, la Cagnina, che alla guida di fatto di un'organizzazione, appunto CSV, che è una struttura di servizi per preparare in particolare le ONG all'accesso ai fondi europei. Sentiamolo. Noi ci stiamo attrezzando, come appunto già facciamo per le cose italiane, per dare alle organizzazioni di volontariato, al terzo settore in generale, un po' tutti i riferimenti per poter accedere ed essere capaci. Abbiamo anche recentemente fatto un piccolo dossier che aiuta un po' a capire come muoversi dentro questo mondo. Abbiamo in programma un corso sulla progettazione europea e una serata informativa dal titolo Progettare in Europa, la mappa dei nuovi finanziamenti europei 2014-2020, che saranno realizzate appunto nei prossimi giorni. Questo per dare un po' tutti gli strumenti come muoversi. A chi vi rivolgete innanzitutto? In primis, come nel nostro specifico centro servizi per il volontariato, alle organizzazioni di volontariato, però tendenzialmente abbiamo aperto anche alle associazioni di promozione sociale e a tutto il mondo del terzo settore in generale, però da noi obiettivamente si rivolgono di più le organizzazioni di volontariato e tra l'altro in modo particolare quelle più piccole, perché magari quelle che sono già grandi rete di loro hanno a loro volta già degli strumenti autonomamente per accedere e delle persone competenti per entrare in queste difficoltà che lei accennava. Noi ci mettiamo più che altro a servizio delle piccole realtà, che come sa però sono la stragrande maggioranza. Noi abbiamo sì grandi reti associative, ma abbiamo nel territorio sparsi tantissime piccole associazioni di volontariato che operano nei territori, appunto, ma sono piccole realtà. Partecipare a questi corsi costa? No, assolutamente, sono completamente gratuiti, perché è proprio nella nostra mission mettere a disposizione corsi, formazione, consulenze alle organizzazioni di volontariato, e questo avviene completamente gratuito. www.csv.org per tutti i dettagli. Ancora, l'Unione Europea non prevede di proseguire il negoziato con la Svizzera sull'elettricità, la notizia battuta una decina di minuti fa alla luce della nuova situazione che si è venuta a creare dopo il voto sul referendum sulla libera circolazione, che è una potenziale violazione degli accordi. La fonte è la portavoce dell'esecutivo europeo Pia Arenkilde. Bene, con questo direi che abbiamo concluso. Europa 24 torna come sempre domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.